Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. C'è il vento che soffia tra i capelli, il fiato che si fa corto, le gambe che resistono contro ogni previsione, le ruote della bici che corrono e due amici che pedalano assieme in tandem, uno dietro l'altro. Sono partiti da Roma e sono arrivati al confine con la Cina. 9 mesi di viaggio per spiegare che niente è impossibile e che la diversità può essere magnifica opportunità e non solo fragilità. È la storia di oggi ed è la storia di Davide Valacchi, non vedente dall'età di 9 anni, un viaggio nato per dimostrare che la disabilità appunto non è un limite, ma un'opportunità. Il nostro viaggio si è svolto dall'8 marzo al 24 ottobre del 2019. Abbiamo pedalato da Roma al Kazakistan. Precisamente il luogo più lontano raggiunto è stata la città di Kegen, sulle montagne proprio al confine tra Kirghizistan e Kazakistan e poco più a ovest del confine con la Cina, che era la nostra prima destinazione, ma che non ci ha mai concesso il visto d'ingresso. Il viaggio è stato compiuto in totale autonomia, in tandem. Alla guida si sono alternati Michele, un mio grande amico cuoco di Bologna che ha pedalato con me da Roma a Teheran, e Samuele, mio amico di Varese, insegnante di arti marziali e non solo, che ha pedalato per il resto del tragitto. Credo che il tandem sia un mezzo di trasporto con delle potenzialità straordinarie per un non vedente, soprattutto per quanto riguarda i viaggi. Questo perché è l'unico mezzo sul quale un non vedente può dare un contributo attivo allo spostamento e allo stesso tempo essere a diretto contatto con l'ambiente circostante, quindi riempire quel vuoto lasciato dalla mancanza la vista. Ecco, a differenza dell'auto, del treno, del pullman, dal quale si può guardare il paesaggio che scorre intorno, sul tandem arrivano anche i suoni, gli odori, c'è una percezione diretta con il suolo, con il manto stradale e con tutte le sue caratteristiche, e questo fa sì che il paesaggio sensoriale alternativo alla vista migliori l'esperienza, anzi renda l'esperienza anche di un non vedente alquanto ricca. Io credo che non ci sia un giorno senza il quale io ritorni con la mente, un giorno in cui io non ritorni con la mente all'anno scorso, e i ricordi fluiscono a caso. Un giorno mi torna in mente un odore, l'odore del plov, che è un, per fare degli esempi, che è un piatto tipico dell'Asia centrale, dove il riso viene cotto per ore in un brodo di agnello con l'aggiunta di legumi, carne e uova di quaglia. Ha un odore inconfondibile che spesso sentivamo dopo giorni di pedalate nel nulla, e che significava che finalmente eravamo arrivati ad un villaggio magari di 4 case costruite con paglia e terra, ma che ci avrebbero dato magari una doccia, non per forza calda, e del cibo diverso dai noodles che ci cucinavamo nel deserto. Riassumere in poco tempo i ricordi del viaggio, di un viaggio come quello che abbiamo fatto, è difficile. Posso solo dire che poche volte mi sono sentito così vivo e che non ho mai pensato, nemmeno nei momenti di maggior difficoltà, che non ne valesse la pena. Perché il senso di libertà e le sensazioni erano di un'intensità e di una bellezza tale che qualsiasi fatica era fatta con grande piacere. Abbiamo dormito molte notti in tenda, io ero l'addetto al montaggio e al disallestimento dell'accampamento, mentre gli altri magari si occupavano più della cucina da campo e della manutenzione del tandem. Dico gli altri perché da Teheran in poi abbiamo spesso viaggiato in tre. Michele sarebbe dovuto tornare in Italia, ma non ha resistito, ha acquistato una bici e altre attrezzature a Teheran e ci ha seguiti quasi fino alla fine. Stando a contatto diretto con la natura e in generale stando all'aria aperta, si imparano a interpretare i suoni e facendo sì che questi ultimi ci descrivano ciò che magari pensiamo sia percepibile solo con la vista. Ad esempio il rumore e l'umidità del vento possono darci un'idea del luogo in cui stiamo, perché il vento di un deserto non è lo stesso che passa attraverso un bosco, per fare un esempio. Il suono di un fiume può farci capire che direzione prenderà la strada che stiamo percorrendo, nel caso in cui la strada segua la direzione di una valle. E è bello sentire pedalata dopo pedalata le lingue che sfumano l'una nell'altra, o i dialetti per quanto riguarda l'Italia, percepire la differenza culturale che a volte c'è anche tra un villaggio e l'altro, distanti pochi chilometri, e le differenze nei comportamenti delle persone che si pongono verso i viaggiatori, a volte in modo più diffidente, a volte più accogliente. In generale ho potuto constatare che maggiore era il livello di povertà, per come noi la intendiamo, e maggiore era la solidarietà o l'intenzione di dare una mano, forse per empatia, non lo so. Comunque il viaggio in bici dà anche la possibilità di porsi su un livello più paritario rispetto ai popoli più poveri, che comunque quando ti vedono arrivare tutto sudato, sporco, sicuramente sì, sanno che vieni dal mondo occidentale, sanno che insomma se hai la possibilità di fare quel viaggio sicuramente non sei nella loro stessa condizione, ma comunque ai loro occhi non appari come qualcuno che scende da una jeep o da un aereo o da un treno. Siccome i confini della Cina sono rimasti chiusi e nessun visto è stato concesso, il tandem è stato regalato a un ragazzo non vedente del Tagikistan. È stato un emozionante passaggio di testimone, un modo per arrivare in nuove terre con un grande messaggio. Davide non vede da quando aveva 9 anni, oggi ne ha 29. Ci racconta che fu il padre a portare a casa il tandem. Quella di Davide è una delle tante storie che hanno per protagonisti persone non vedenti e tandem. In Emilia-Romagna, terra di bici e di pianura, sono nate tante associazioni che hanno diffuso questa pratica per muoversi, anche se non vedenti, per emozionarsi, sentendo appunto il vento tra i capelli. Ma il tema dello sport collegato alle persone non vedenti è un grande e ben frequentato argomento. Silvia Parente. Guarda, io ho iniziato a fare sport grazie ai miei genitori quando ero molto piccola, avevo 6 anni, mi hanno messo sugli sci, cosa che all'epoca era impensabile per una bambina completamente cieca. Non esisteva internet, quindi non c'era neanche modo di avere scambio di informazioni se mai qualcun altro ci avesse provato, quindi hanno proprio da zero. E quello che mi ha dato lo sport da piccola, l'emozione, me la ricordo ancora adesso, e è stato il mio cambio di vita. Da allora è cambiato tantissimo lo sport, adesso ci sono delle associazioni come Playmore, come il gruppo sportivo non vedenti di Milano, come la mia fondazione, che veramente fanno tanto per lo sport, per unire disabilità e normodotati, tra virgolette. Ma all'epoca veramente non si sapeva quasi niente, e siccome secondo me invece lo sport fa bene non solo al fisico, ma fa bene alla socialità, fa bene ad avere sicurezza in se stessi, ad apprendere mille modi per affrontare la vita sia lavorativa. Per esempio, io ho imparato ad andare in giro da sola grazie allo sport, mi ha dato coraggio, mi ha dato modo di conoscermi e di poter andare oltre anche nella vita di tutti i giorni. Allora questo adesso, visto che io l'ho avuto per tanti anni, lo voglio mettere a disposizione degli altri. incontro Silvia a Milano in un centro sportivo che da anni porta avanti progetti che coniugano lo sport e la disabilità. Io sono Matteo Bruschiera e mi occupo per Playmore dei progetti sociali di Playmore, perché Playmore è una società sportiva dilettantistica che ha una serie di attività tra cui corsi sportivi, affitto campi, eccetera, eccetera, come tutti i centri sportivi, però ha anche un'anima sociale che è ben rappresentata da numerosi progetti sociali e io mi occupo di quelli, sono il responsabile dei progetti sociali. Cioè i nostri progetti hanno come destinatari le persone che hanno una disabilità, ma soprattutto le persone che non ce l'hanno. E abbiamo riscontrato nel tempo che chi si arricchiva di più erano i ragazzi o gli adulti o i bambini che prendevano parte a queste attività. E i corsi più vecchi, il calcio ad esempio, il calcio a 5, adesso vede un gruppo composto da ragazzi con e senza disabilità in un numero uguale, ragazzi di ogni età, ragazzini di 15, 16, 18 anni che vengono per divertirsi e vengono arricchiti notevolmente da questa esperienza. E io quest'anno ho avuto la fortuna di viverla sulla mia pelle, perché accidentalmente ho portato mia figlia, che ha 8 anni e mezzo, in una giornata di attività sportiva. Lei ha visto l'attività che stavano svolgendo dei bambini facendo il multisport e la scherma, ha chiesto se poteva fare una prova e da lì ha voluto iscriversi. Quindi quest'anno ho vissuto anche sulla mia pelle la conferma di quanto può funzionare questa cosa, e lei viene ogni venerdì a fare queste due discipline ed è contentissima. Questo mi dà non solo la conferma, ma ovviamente mi dà una spinta emotiva enorme per andare avanti e spingere sull'acceleratore. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. I'm not going to give you a question. You are fake news. أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي. L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Una puntata, quella di oggi, dedicata alla disabilità visiva che riguarda circa 2 milioni di persone, cioè il 3% della popolazione italiana. Una fascia di cittadini per i quali sono stati fatti tantissimi passi avanti. La più grande conquista è una ormai totale autonomia che ha permesso a centinaia di persone di praticare sport, viaggiare, studiare, sino e oltre la laurea. Sport e disabilità sono due importanti pilastri di questa puntata. Qui siamo all'interno di un centro sportivo milanese che ha deciso di mettersi in gioco su questo fronte. In questo posto le persone non vedenti vengono a giocare, ad esempio a tennis, a insegnare loro un'istruttrice ipovedente. Io sono Maria Esther Nakano, sono ipovedente e istruttore di blind tennis, di tennis per ciechi. Io adesso per esempio non mi ero accorta che tu eri ipovedente, questo è un problema che a te capita spesso? Spessissimo, devo spiegare perché non riesco a leggere i cartelli, perché non riconosco le persone, e perché non vedo i gesti, perché ovviamente questo problema ce l'ho da sempre, diciamo, però non era così grave, quindi fino a 15-20 anni fa vedevo abbastanza bene, guidavo anche la macchina e poi quando è finita quella tappa di veder bene mi sono adattata a questo veder molto meno, però i gesti comunque come movimento corporale tutto rimane quello del vedente. quindi ogni tanto faccio delle figuracce, tipo andare addosso alle cose, la gente non capisce perché, no? Quindi ti tocca spiegare. È il solito problema, chi non usa il bastone la gente pensa che veda bene, però è colpa nostra, perché forse anche dovremmo usarlo per indicare che, come in tanti altri paesi, è solo qua che non lo fanno gli ipovedenti. 40 anni fa giocavo tennis da vedente, quindi tecnicamente so come si gioca il tennis, e adesso, avendo questa disabilità visiva, lo adatto, diciamo, alle problematiche che abbiamo noi. È difficile per un ipovedente con la mascherina, sicuramente, perché non prendiamo una pallina. E qua abbiamo due persone, cieche totale, che in 2 anni giocano che è una meraviglia. Cioè, io quando alleno loro quasi quasi mi dimentico che non vedono. E questo è bello anche perché uno capisce le potenzialità delle persone, oltre alla disabilità. Ti sorprende ancora oggi questo lavoro che fai? Nel senso che probabilmente qualche anno fa tutto quello che stai costruendo oggi non avresti potuto neanche immaginarlo. No, certo, è più che sorprendente, anche bellissimo, cioè è un'esperienza fantastica, perché adesso a Milano siamo in tanti e questa è una cosa molto bella. Abbiamo iniziato 3 anni fa, che eravamo in pochissimi, e la gente che si è avvicinata a noi rimane, perché comunque è bello anche farlo così. Scardinare tanti luoghi comuni, battersi perché le città abbiano meno barriere possibili e uguali opportunità. Mi spiega Silvia Parente, che vive a Bologna ma viene spesso a Milano, che la situazione di disparità che si incontra sul territorio nazionale è una grave ingiustizia. Significa che non tutte le persone non vedenti possono praticare sport come le persone che incontro qui oggi. L'aspetto positivo è che l'esistenza di questo gruppo, così allegro e determinato nel cambiare il verso delle cose, sta producendo grandi effetti. E adesso purtroppo ci sono molti ragazzini che, oltre alla vista, hanno altri problemi, quindi pluridisabilità. Vedere da un giorno all'altro come cambiano, per esempio nei ciechi, nei ragazzini con problemi che non hanno mai fatto sport, ci sono molti tic, molti si chiamano ciechismi, praticamente dei movimenti incontrollati del corpo, della testa, delle mani, e appena iniziano a fare sport cambiano completamente atteggiamento. Questo è quello fisico che si vede subito, però segue a quello fisico anche quello mentale, ed è sempre un'emozione tutte le volte che la vedo, anche se so che succede, tutte le volte che mi capita mi emoziono. E qui giochi a tennis, cosa fai qui? Qua al Plemor, sì, anch'io sono venuta a fare con Maria Esther, a far giocare i bambini non vedenti quando fanno sport for all per blind, quindi abbiamo fatto provare a giocare a tennis, provano a giocare a baseball, che è un altro sport che fanno i non vedenti. Poi adesso con la fondazione per lo sport mia e Playmore abbiamo fatto un nuovo gemellaggio, faremo questo run challenge che loro già fanno qua a Milano, che si fa qua a Milano di corsa tutti insieme, e lo stanno portando in varie città, e quindi lo sposteremo anche su Bologna, partiremo anche presto su Bologna. Loro stanno partendo adesso anche su Roma, e quindi stiamo collaborando e non vedo l'ora che parta qualcosa anche a Bologna. Sai che è pochissimo. Bologna, per essere una città così avanti, che tutti dicono che Bologna è molto avanti a livello intellettuale, a livello sociale, in realtà con lo sport per disabili sono molto fermi, non dico indietro, ma fermi, si sono fermati, e noi stiamo tentando adesso di far ripartire le cose. Ma con lo sci com'è che fai? Non hai paura perché prendi velocità anche? Sì, con lo sci prendi velocità. Io ho imparato che ero piccola, quindi il problema della paura non l'ho avuto, perché all'epoca non avevo questi problemi. Magari se avessi iniziato da adulta probabilmente sì. Lo sci è bello, ti dà proprio l'idea della libertà, anche se devi seguire un'altra persona, perché non puoi andare giù da sola, anche se io e Maurizio, che abbiamo passati di marachellate che abbiamo fatto quando eravamo un po' più incoscienti, e che ogni tanto facevano le gare che arrivava giù prima, e piuttosto che no ci buttavamo anche per terra l'un l'altro, e, però questo nel passato, quando eravamo giovani. E quanto vi conoscete? Adesso faccio un po' di domande a Maurizio. Intanto presentati con nome e cognome. Sono Maurizio Scarso, E niente, io sono un atleta datato del gruppo sportivo non vedenti di Milano. Da quanto conosci Silvia? Silvia la conosco da quando era ancora minorenne, quindi 2 o 3 anni fa ci siamo conosciuti. Sarà all'inizio, no, a metà degli anni 80. Quindi. Tu hai sempre fatto sport? Io sempre di più, diciamo. Sono partito tardi, anche perché io vivevo ad Esio in Brianza, quindi era un pochino più complicato, diciamo, sia a livello di strutture. Adesso sembra tutto, c'è tutto ovunque. 30 anni fa Milano-Desio c'era un abisso, soprattutto come opportunità, appunto, per poter trovare gente, per poter fare sport. E poi trasferendomi a Milano, ad esempio, io ho cominciato a sciare a 36-37 anni, proprio tardissimo, infatti ero un paracarro sugli sci all'inizio, veramente. Dicono che la cosa che deve imparare per primo sciatore è a cadere. E immagini di imparare a cadere a 37 anni, non è come buttarsi a 20 anni, quindi ho avuto un pochino più di difficoltà, anzi molte più difficoltà all'inizio. Poi ho cominciato a vivere un po' di rendita, però ho dovuto sto facendo conto con l'età che avanza, diciamo. Però no, sicuramente fare sport, a parte l'aggregazione, cioè mi sono reso conto che il modo più divertente, sembra una frase fatta che è una scuola di vita, ma è proprio il modo più divertente per imparare la vita, la relazione, il rispetto. Lo fai, cioè cresci senza accorgertene praticamente, perché fai una cosa che ti diverte. Senti, una battuta sul tennis che mi dicevano... Una battuta sul tennis, se avessi qua una racchetta e una pallina... No, il tennis a me, io mi ricordo, lo racconto sempre sto fatto, io da ragazzino ero ipovedente però non vedevo la pallina del tennis. E allora, ma ti parlo di quando avevo 8-9 anni, andavo in cortile, io lo seguivo in televisione perché mi ricordo che vedevo, allora a parte Wimbledon erano tutti i tornei in terra rossa, superfici veloci non ce n'erano ai tempi ancora, e quindi... Vedevo le movenze dei vari Panatta, Zugarelli, Barazzutti, no? E io andavo con una racchetta in mano, senza pallina, a scimmiottare il servizio, la corsa a rete, l'arretramento. Ero davanti al muro in cortile così, mi muovevo così, facendo proprio... Per cui quando me ne hanno parlato 3-4 anni fa, nel Berlin Tennis, io... Già sono partito, cioè l'idea del tennis ce l'ho sempre avuta, diciamo, dello spostamento, di come fare il pallonetto, tutte queste cose che facevo da ragazzino. Poi naturalmente da non vedente il primo istinto che mi è venuto quando mi ha lanciato una pallina è mettermi davanti alla pallina, e siccome so da cieco che ho davanti una rete da scavalcare, cosa faccio? Vado giù con la racchetta e la pallina cerco di prendere, di alzarla per buttarla di là, che non è certo il gesto del tennista, che il tennista va a colpire. Non siamo, come ti chiamiamo? Il padellaro. Il padellare. Lo spadello. Però no, nessuno viene a cena da me, nonostante. Nel frattempo cominciano ad arrivare altri atleti non vedenti. Mi dicono che non posso esimermi dall'intervistare un signore che anima i pomeriggi della corsa. Il suo nome è Matteo Briglia. E arriviamo qua, ci sono i volontari, gli educatori, le guide, adesso non so qual è il termine giusto, e veniamo divisi in gruppi, andiamo al parco, al Sempione, all'Indro Montanelli e... divisi in gruppo, corriamo felici, contenti e scarichiamo le nostre angosce, tensioni. Tu facevi attività sportiva prima di fare questo? Io ho giocato insieme a Maurizio, grande capitano dei Lampi Milano di baseball, a baseball per alcuni anni, 8-9 anni, e adesso con Esther, Maurizio, Silvia e altre persone siamo molto impegnati e belli gasati per la promozione e la diffusione del blind tennis. Gioco anch'io con loro, ho iniziato praticamente insieme a loro, cos'è, un paio d'anni? Ma quasi 3, sì. No, vabbè, io non ho certo il fisico dell'atleta, adesso lunedì sono andato dal dietologo e lunedì prossimo inizierò la dieta che lui mi prescriverà. Ma io sono molto impulsivo, quindi magari la faccio bene un mese e poi mi incavolo per una stupidaggine e urlo carbonara e poi magari mi faccio 8 litri di birra e vani, come dice Conte, il nostro presidente del consiglio, andrei a vanificare, e quindi non vorrei vanificare, però ci si prova, è già la quarta dieta. La puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.